Terza parte di Rock Legends, con voi sempre Jean-Luc al microfono, e lo ricordo, stasera ospiti della ravennata gli Stone Machine. Con voi e con loro ascolteremo sei brani del CD Human Regression, come il primo che è andato in onda, titolo Back to Living Me. La vostra esperienza durante la registrazione, nei quali idee musicali che hanno dato vita a questo CD? Ma guarda, per quanto mi riguarda, il ricordo di quell'esperienza è ancora molto vivo, e comunque ricordo come un periodo molto molto fluido, perché siamo andati in studio con l'80% del disco praticamente già pronto, e quindi avevamo le idee molto chiare praticamente su quasi tutto quello che dovevamo fare, arrangiamenti compresi, tranne un pezzo che in pratica è nato veramente qualche giorno prima di andare in studio e l'abbiamo creato lì per lì, non era previsto infatti nelle registrazioni. E le idee comunque sono il risultato dei primi 6 anni di vita del gruppo, per cui tutti i pezzi che abbiamo composto fin dall'inizio, e abbiamo scelto quelli che comunque più rappresentativi per quanto riguarda proprio il concetto della regressione umana, che in fondo tutti questi pezzi a modo loro parlano di questo concetto di punto di regressione umana. La prossima canzone per i nostri ascoltatori. Pronti con l'Advenging su Intoxication. We'll be right back. In studio ancora con gli Stone Machine, recensioni, quali le più lusinghiere e cosa dicono del vostro album? Beh, l'album è uscito inizio ottobre e abbiamo avuto già le prime recensioni. Sicuramente una delle più belle è stata quella di Rumore, che è uscita nel mese di gennaio, dove fatta da Claudio Sorge, dove mette in evidenza la nostra semplicità dei pezzi, la nostra potenza e il nostro suono rude, primitivo. E ci ha dato anche un bel set, che comunque per un esordio italiano positivo, non è male. Poi altre recensioni, soprattutto le abbiamo ricevute da siti web, webzine estere, quindi Belgio, Music in Belgium, Planet Fuzz, che è australiano mi sembra. Anche da un sito inglese, un paio di siti inglesi ci hanno recensito, comunque sempre positivamente fino comunque adesso. Comunque essere apprezzati anche all'estero, cioè per una realtà, noi veniamo da una realtà molto piccola che è la nostra Ravenna, dove pian piano ci espandiamo, sapere che sei apprezzato anche all'estero fa molto piacere. Bene, bene. Prossima canzone. Il prossimo pezzo richiama il rock anni 70 prima, ascoltato prima, ed è Bed of Sin, con un piccolo omaggio finale. Noi torniamo a breve per la quarta parte di Rock Legends con gli Stone Machine, e rimanete ancora su Radio RCS. Fly!